Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Inchiesta sulla Lega: nella cassaforte di Belsito trovata la cartella con scritto The Family. Risparmi delle famiglie ai minimi dal 95, profitti delle imprese più bassi da 17 anni. Crisi, una strage silenziosa, suicidi cresciuti del 24,6%. Monti a Napoli rilancia il sito archeologico di Pompei e le linee del protocollo di legalità. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura, prima di parlare dell'inchiesta sulla Lega, le parole che stanno arrivando in questi minuti da Pompei, come da Napoli, scusate, dove, come sentivate nei titoli, sta parlando il presidente del Consiglio, Mario Monti. Dice: questo è un breve governo, ma la sua condizione di brevità è condizione per non perdere tempo. E poi parla del Sud: lo stato dell'economia meridionale è serio, patisce la crisi generale e la fase recessiva del nostro paese, e non solo. Parleremo più avanti appunto di Monti. Adesso lo scandalo nella Lega: il Consiglio federale del partito si riunirà oggi per decidere chi nominare al posto del tesoriere dimissionario Belsito. Una cartella con l'intestazione Family l'hanno trovata gli inquirenti in una cassaforte contenente i documenti che attesterebbero le elargizioni a favore della famiglia Bossi. Decisiva la telefonata intercettata tra il tesoriere Belsito e l'impiegata da Grada. Il 26 febbraio i due fanno il conto delle spese sostenute con i soldi pubblici destinati alla Lega. Belsito, convocato a Roma da Bossi, teme di essere estromesso dopo le prime fughe di notizie sui milioni di euro di rimborsi elettorali investiti in Tanzania e le pressioni dei leghisti. L'impiegata gli suggerisce allora di ricordare a Bossi cosa rischia se viene fuori quanto elargito alla sua famiglia e alla vicepresidente del Senato Rosi Mauro. Nell'elenco si parla tra l'altro dei costi sostenuti per tre lauree per il diploma di Renzo Bossi, di 670.000 euro pagati per il 2011 senza giustificativi, di alberghi, auto acquistate o affittate come una Porsche per Riccardo Bossi, di una casa in affitto a Brescia, di 251.000 euro per gli uomini della scorta di Renzo, della ristrutturazione della casa di Gemonio. Quanto a Rosi Mauro, si fa riferimento a quasi 29.000 euro ricevuti, ma anche ad altre somme, e ai 300.000 euro finiti al SIMPA, il sindacato da lei fondato. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. E sulla situazione all'interno della Lega, Alessandro Milan ha intervistato in 24 Mattino il sindaco di Treviso, Giampaolo Gobbo. Bossi non gli sono mai interessati, i soldi per la gestione del partito, se non proprio per quella che è ovviamente la logica di tutto quello che serve per il movimento, e quindi di questo sono su Bossi, sono sicuro. È sicuro, è sicuro, lei è sicura anche di chi gli sta intorno, questo cerchio magico, i familiari stessi? Fare queste definizioni, se si è sicuro, se non è sicuro, io ribadisco. Ci sono stati degli errori, questi ovviamente, se ci sono state del male uso di questi fondi, ovviamente chi li gestiva ne dovrà rispondere. Ma questo sicuramente, ripeto, però vedremo l'inchiesta. Però sindaco, per quel che mi riguarda non credo ci siano tutte queste cose che vengono dette, attribuite. Ma oggi c'è il Consiglio federale, secondo molti giornali Bossi potrebbe dimettersi o presentarsi come... Secondo lei a questo punto dovrebbe dire: visto quello che esce per il bene della Lega faccio un passo indietro e si dovrebbe dimettere? Ma io questo non lo so, e questo qua non ne abbiamo ancora parlato. No, ma a suo parere? Una situazione del genere. Il mio parere in questo momento è che, ripeto, Bossi non è toccato da questa situazione, perché tante altre cose che sono state fatte Bossi poi le ha ricondotte ad una logica normale. Io comunque non sono per queste soluzioni, perché Bossi è sempre stato alla guida e non è il solo Bossi. Sa, a volte per far piacere magari al leader, si fa magari anche cose che il leader stesso non sa. Nel servizio adesso sentiamo un ritratto di Francesco Belsito e dei tesorieri dei vari partiti messi sotto accusa nel corso delle inchieste sulla corruzione. Tra le carte sequestrate al tesoriere della Lega ce n'era una chiamata The Family, che forse contiene documenti sulla famiglia Bossi. Intitolare il faldone Famiglia sarebbe stato banale. Meglio Family, più accattivante e più contemporaneo. Il tesoriere Belsito, del resto, chi è se non un prodotto della contemporaneità nostrana? Quella pronta a tutto pur di godere subito. Non potendo per motivi di genere ambire alle aule, passando per le televisioni, Belsito ha comunque trovato la sua via dalle discoteche genovesi a Roma, collezionando cariche e incarichi, diplomi tarocchi, lauree sospette, amicizie pericolose o anche solo imbarazzanti. Nulla lo ha fermato e soprattutto nessuno. Giovanni Morandi sul Giorno l'ha messa sulla fisionomica. Guardatelo in faccia, scritto, per capire il degrado della politica italiana. Ma più che le facce, sarebbe bello confrontare i linguaggi del corpo di tanti altri tesorieri finiti sotto inchiesta, da Severino Citaristi, DC, a Marcello Stefanini, prima PC e poi PDS, fino a Francesco Pontone, Alleanza Nazionale, Giuseppe Naro, UDC, Luigi Lusi, Margherita e infine appunto Belsito. Citaristi, nonostante i 74 avvisi di garanzia, chissà come è passato alla storia come un galantuomo. Difficilmente accadrà agli indagati dei nostri tempi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Apriamo la pagina economica adesso con i dati dell'OCSE. L'Italia che si conferma maglia nera, appunto, per quanto riguarda l'attività economica tra i maggiori paesi dell'OCSE. Il prodotto interno lordo della penisola ha accusato il calo più forte nel quarto trimestre, un meno 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti, dopo il meno 0,3% già accusato nel terzo trimestre. In media la dinamica del PIL nell'area OCSE ha segnato un più 0,2% nel quarto trimestre, in rallentamento dal più 0,6% del terzo. Il punto più basso della recessione deve però essere ancora toccato. A parlare la Confcommercio in occasione della diffusione dell'indicatore sui consumi del mese di febbraio, in calo dello 0,9% su base annua. La crisi si riflette anche negli ultimi dati dell'Istat sui risparmi delle famiglie. I dati sono quelli del quarto trimestre, ma c'è da giurare che la situazione non sia migliorata nei primi mesi di quest'anno. E l'Istat non fa altro che certificare una realtà conosciuta e vissuta da molte famiglie e con questi ultimi dati ricostruire l'anno appena passato. Le risorse a disposizione sono sempre più limitate, si spende meno e si risparmia anche meno. Nel 2011 la disponibilità a metter via soldi da parte delle famiglie si è fermata al 12%, la percentuale più bassa dal 95 a oggi. È risalita di poco negli ultimi mesi, ma in questo caso non si può trascurare l'effetto tredicesima. Il potere d'acquisto, tenuto conto dell'inflazione, ha subito un taglio di mezzo punto, nonostante l'aumento del reddito disponibile. E se per le famiglie la vita è dura, non è semplice nemmeno per le aziende, almeno non per tutte. Da un anno all'altro la quota di profitto delle società non finanziarie si è ridotta, di poco superiore al 40%, anche in questo caso si tratta del valore più basso dal 95%. Meno profitti significa anche meno investimenti, che si sono assottigliati con il passare dei mesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono in aumento i suicidi per motivi economici. Una fiaccolata è stata organizzata per il prossimo 18 aprile a Roma. La disperazione ha radici lontane. Non è solo negli ultimi mesi che stanno lievitando i numeri di chi sceglie di togliersi la vita perché schiacciato dalla situazione economica. È stata la CGA di Mestre a mettere in luce come sia ormai una costante tendenza. Già dal 2008 al 2010 i suicidi per motivi economici erano aumentati in Italia del 24,6%, un quarto in più, mentre i tentativi di suicidio legati alle difficoltà economiche erano cresciuti del 20%. Una tendenza in triste ascesa, con l'acuirsi della crisi, che tocca il picco nel nord-est tra i piccoli imprenditori. Sono oltre una cinquantina negli ultimi tre anni quelli che si sono tolti la vita. In termini assoluti, a fronte di 150 suicidi per ragioni economiche nel 2008, nel 2010 i gesti estremi erano saliti a 187 e il bilancio di questo 2012 rischia di essere ancor più drammatico, anche perché lo scorso anno ben 11.615 aziende hanno chiuso i battenti per fallimento, un record. Le punte massime in Lombardia, con il 31,5% di fallimenti ogni 10.000 imprese attive. A seguire, con punte attorno al 25%, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto. E, dopo l'ultimo caso a Roma il 18 aprile, è stata organizzata nella capitale, davanti al Pantheon, una fiaccolata per ricordare gli imprenditori suicidi. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le difficoltà economiche, i numeri che abbiamo citato poco fa sulla recessione stanno naturalmente continuando ad avere un impatto sui mercati in queste ore e in questa settimana. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, un'altra giornata piuttosto negativa per i mercati europei, stanno pesando diversi fattori, abbiamo già iniziato da qualche settimana a ripercorrere un trend in discesa, ma questo trend si è accelerato negli ultimi giorni per le notizie che arrivano dalla Spagna. Ieri c'è stata una non particolarmente corposa, ma che comunque non ha avuto tutta la copertura richiesta. I rendimenti dei titoli di Stato spagnoli hanno ripreso a salire ed è ripreso ad allargarsi questa mattina anche lo spread fra i bonus spagnoli e i bund tedeschi. Il differenziale di rendimento ha superato i 400 punti base, portando con sé anche quello italiano, cioè il differenziale di rendimento fra i BTP e i bund tedeschi, che è ritornato sui 380 punti base. Le borse questa mattina avevano aperto con un tentativo di rimbalzo dopo i cali di ieri, bruciato subito. Milano è arrivata di nuovo a perdere il 2%, adesso c'è dell'1,59%, Parigi meno 0,4%, Francoforte meno 0,9% e Londra meno 0,43%. Peraltro con i cali di oggi le piazze europee hanno quasi completamente bruciato il rialzo che erano riuscite a mettere a segno dall'inizio dell'anno. Tutte le vendite sono particolarmente concentrate, neanche a dirlo, sui titoli del settore bancario, con Monte dei Paschi, Popolare di Milano e il Banco Popolare che perdono circa 4,5 punti ed è in netta retromarcia sul dollaro anche l'euro a 1,30,70. Per ora, Simone, è tutto. Grazie dunque a Deborah Rosciani, è il momento della nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Piazza Fontana è tornata di attualità grazie al film sugli schermi romanzo di una strage. Che c'entra paese sommerso? C'è un filo conduttore che attraverso l'evasione fiscale arriva in Giappone. Ne è protagonista l'esponente neofascista di Ordine Nuovo Delfo Zorzi, indagato per Piazza Fontana, condannato in primo grado, assolto in Cassazione quando già si trovava da un pezzo in un lussuoso quartiere di Tokyo, al riparo dalle condanne e dalle vane richieste di estradizione del governo italiano. Le faccio la domanda più banale, intanto ha un alibi per quel giorno? Mi scusi l'impertinenza, dottor Vespa, lei ce l'ha l'alibi per quel giorno? Quando parlava al telefono con Bruno Vespa era già in Giappone, dove vive prospera con il nuovo nome di Hagen Roya grazie alle sue attività nel settore del pellame e della moda. Produce borse col marchio Oxus, ma è anche licenziatario di firme famose. Ed ecco che per queste attività nel 2010 è stato denunciato dalla Guardia di Finanza veneziana per un'evasione fiscale dal 2004 al 2008 di circa 40 milioni di euro di imposte dirette e 20 milioni di euro di IVA. Dalle indagini Zorzi è risultato amministratore di fatto di una complessa rete di società che fanno capo al gruppo Pelle Italia, formalmente controllato da società con sedi in Svizzera, Lussemburgo, nell'isola di Man e nelle isole Vergini. Evasione fiscale, poca cosa si dirà rispetto ai morti, certamente. Non bisogna dimenticare però che anche per Al Capone scattarono le manette non per mafia, ma per non aver pagato le tasse. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13, 16 minuti e 47 secondi in questa edizione di GR24 in primo piano, l'inchiesta sulla Lega. Nella cassaforte dell'ormai ex tesoriere Belsito è stata trovata una cartella con scritto The Family. E poi abbiamo parlato di economia, ci sono i dati dell'OCSE che nel quarto trimestre vedono per l'Italia un calo del PIL dello 0,7%, il peggiore proprio dell'area OCSE. Nel frattempo i dati dell'Istat sui risparmi delle famiglie, che sono ai minimi dal 95, i profitti delle imprese, i più bassi da 17 anni. Nel frattempo ci sono anche dati drammatici per quanto riguarda i suicidi per la crisi, sono cresciuti del 24,6%. E poi c'è il Presidente del Consiglio che a Napoli sta presentando il piano per Pompei e le linee del protocollo di legalità, ma ha parlato anche di economia. E noi continuiamo a parlare di economia e continuiamo a parlare della riforma del mercato del lavoro. In diretta da Roma, Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. Giorgia, innanzitutto una notizia dell'ultima ora: il capo dello Stato Napolitano ha firmato l'autorizzazione per l'invio del disegno di legge alle Camere, un esame formale ma comunque attento, un atto che dà dunque il via all'iter parlamentare. E intanto da Pompei il Premier Monti torna a parlare della riforma, definendola un passo necessario verso una Italia più moderna, una riforma difficile da spiegare ma vitale soprattutto per gli esclusi e che realizza un punto di equilibrio tra diverse visioni. Ma soprattutto, a detta di Monti, è una riforma che dovrà avere un iter spedito, senza annacquamenti che non sarebbero apprezzati dagli investitori esteri e dai mercati. Il disegno di legge dunque, come abbiamo detto, si appresta a cominciare il suo iter parlamentare dal Senato, dove il testo verrà incardinato, ma non saranno rose e fiori, c'è malumore infatti nel PDL, in particolare lo ricordiamo per quel punto che ha consentito alla fine di trovare l'intesa con il PD, e cioè la possibilità che il giudice possa disporre il reintegro del lavoratore qualora si accerti la manifesta insussistenza del motivo economico del suo licenziamento. Monti ha ceduto su punti che lui aveva definito decisivi e intoccabili, tuona oggi Gasparri, e lo ha fatto incontrando separatamente il leader del PD Bersani, un fatto che per il capogruppo del PDL al Senato aumenta l'autonomia del suo partito dal governo, e sono parole pesanti alle quali si aggiungono quelle di Fabrizio Cicchitto, che parla di sofferto compromesso e avverte: per avere i nostri voti servono intese su altri aspetti, servono dunque modifiche. A questo si aggiunge il malessere delle imprese, che parlano di modifiche inaccettabili sull'articolo 18, affermando che è meglio nessuna riforma che una cattiva riforma. Cauta invece la CGIL, che oggi ha riunito la sua segreteria. Ed è ormai tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. E noi veniamo alla mattinata del Presidente del Consiglio, Mario Monti, che come si diceva sta presentando il progetto per Pompei. Ci collegheremo con Napoli tra un attimo, ma prima ascoltiamo proprio le parole di Monti. Pompei, nonostante le sue condizioni, nonostante la scarsa qualità dei servizi offerti, attira in media 6.000 visitatori al giorno, con punte di 20.000 in alcuni giorni dell'anno. Potrebbero essere di più, e soprattutto potrebbero trattenersi sul territorio anziché fuggire subito lontano da esso. Potrebbero spendere assai di più per prodotti di qualità. Potrebbero innescare processi virtuosi con una gioventù locale che soffre di una gravissima disoccupazione. Ma prima di tutto, affinché uno scenario nuovo si apra, è necessario che Pompei rimanga in piedi. E dunque vediamo quali sono le linee di questo progetto. Ci colleghiamo con Romolo Napolitano in diretta da Napoli. Buongiorno Romolo. Sì, buongiorno. Qui si è quasi concluso l'intervento di Mario Monti, che per la prima volta viene a Napoli da Premier. L'occasione, come avete detto, è la firma del protocollo di legalità per il grande progetto Pompei. Un nome che trovo bellissimo, ha detto Monti, per niente burocratico. Si tratta di 105 milioni di fondi europei che dovranno dare nuova linfa agli scavi archeologici tra i più noti al mondo. Insieme a Monti, un poker di ministri: Ornaghi, Barca, Profumo e Cancellieri. Il protocollo prevede controlli su tutti i contratti, gli appalti e i subappalti. Nessun euro deve andare alla criminalità organizzata, hanno detto i ministri accorsi. Monti ha parlato anche di Sud. Ci sono buoni esempi, ma manca la massa critica. Il grande progetto Pompei sarà usato come metodo dal governo per rilanciare il Sud. E per ora da Napoli è tutto. Linea allo studio. E grazie a Romolo Napolitano. Non è la prima volta che a Pompei arrivano fondi dell'Unione Europea, ma questa volta anche i più critici mostrano ottimismo. Da sempre critico è Antonio Irlando, direttore dell'Osservatorio Patrimonio Culturale, ospite questa mattina prima edizione, intervistato da Anna Migliorati. È l'ultima occasione, non fosse altro anche per situazioni economiche contingenti internazionali, anche perché non è la prima volta che l'Europa investe su Pompei. Questo è certamente un grande progetto con molti fondi, però Pompei già altre volte, attraverso la regione Campania, ha finanziato degli interventi di conservazione su Pompei. Dai risultati, ahimè, non positivi secondo gli obiettivi che ci si era proposti, cioè quelli di contribuire alla valorizzazione dell'area archeologica, appunto attraverso una corretta conservazione prima, e poi non aumentando quello che è la domanda turistica. Nel concreto significa che molte delle case restaurate, con i fondi europei non sono aperte al pubblico. Questa è una delle ammonizioni che ci è già venute dall'Unione Europea. Noi auspichiamo che non si verifichi anche questa volta. Giornata di partenze, oggi lo avete già sentito nel corso di Strade in diretta, con le scuole chiuse per le vacanze pasquali. Fino al 10 aprile è previsto traffico intenso, atteso anche l'arrivo di turisti stranieri da paesi confinanti, Austria, Francia, Svizzera e Slovenia. Ma a partire saranno meno degli anni scorsi, dicono le previsioni. Rosario Trefiletti di Federconsumatori. Le previsioni di dover pagare l'IMU, le questioni relativamente a prezzi e tariffe che aumentano in misura incredibile, tipo luce, gas ed altro ancora, e poi sarebbe meglio non parlarne, ma ahimè dobbiamo parlarne, i carburanti, quando da Pasqua dell'anno scorso ad adesso c'è un costo in più per fare i pieni di benzina di 22 euro per pieno. Beh, insomma, siamo di fronte a una situazione che fa scappare la voglia di partire, ed ecco perché le partenze si attesteranno a circa un 11% della popolazione italiana, quindi ben al di sotto di quanti invece meriterebbero qualche giorno di sana vacanza. Per Yahoo arriva il piano di risanamento, via 2000 posti, il 14% della forza lavoro. Yahoo ha annunciato un programma di ristrutturazione che prevede circa 2000 licenziamenti a livello globale, il 15% dei dipendenti. Si tratta della sesta volta in 4 anni che l'azienda di Sunnyvale decide di ridurre la forza lavoro, e alcuni analisti hanno commentato la notizia dicendo che i licenziamenti non sono quello di cui Yahoo ha bisogno, perché non si possono generare nuove entrate a colpi di tagli. L'azienda al momento parla infatti solo dei risparmi attesi, che a regime dovrebbero essere pari a 375 milioni di dollari. Il piano è il primo e importante passo di Scott Thompson, ex PayPal e da gennaio alla guida di Yahoo al posto della signora Carol Bartz. Yahoo rimane una delle aziende più importanti della rete, è il quarto sito più visitato al mondo, ma soffre la concorrenza di Google, Bing di Microsoft e Facebook. Nel frattempo un altro grande nome della rete, Skype, pensa ad espandersi ed è pronto ad assumere 400 persone in tutto il mondo. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 ore. L'inchiesta sul calcio scommesse entra nel vivo con gli interrogatori a Bari dell'ex capitano dei biancorossi, Andrea Masiello. In lacrime avrebbe risposto senza reticenze, confessando i versamenti bancari, riconosciuto in foto l'emissario del Lecce che lo corruppe, indicato altri giocatori suoi complici. Giornata dura quella di ieri per Andrea Masiello, l'ex capitano del Bari, l'uomo dell'autogol venduto nel derby con Lecce. 4 ore di interrogatorio di garanzia col jeep a Battista, e poi il difensore, ora dell'Atalanta, è stato di nuovo sotto torchio del procuratore Antonio Laudati e del PM Ciro Angelillis. Per lui l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Intanto nell'informatica del 21 febbraio, allegata agli atti dell'inchiesta della Procura di Bari, ci sono prove rilevanti ai fini dell'inchiesta. Infatti, qualche giorno dopo le partite truccate dei biancorossi, sui conti correnti degli indagati sono stati versati quasi 40.000 euro in contanti. Da qui l'arresto dei due amici scommettitori di Masiello, Fabio Giacobbe e Giovanni Carella. Il presidente della Federcalcio Abete ha intanto garantito che entro fine aprile la Procura federale farà partire deferimenti. Una corsa contro il tempo che potrebbe coinvolgere anche altre squadre. In una lettera del 9 febbraio del procuratore Laudati al collega della Procura di Cremona, Di Martino, si citano anche altri due incontri già emersi in occasione degli arresti, Bari-Sampdoria e Palermo-Bari, ma anche altre 3 partite della Serie A 2010-2011, Milan-Bari, Bari-Chievo e Bari-Roma, partite sulle quali però non sono emersi riscontri. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per il calcio giocato, Real Madrid e Chelsea raggiungono Bayern, Monaco e Barcellona nelle semifinali di Champions. Gare di ritorno senza storie. I madrilisti, forti del 3-0 dell'andata al Bernabeu, liquidano l'Apoel Nicosia per 5-2. José Mourinho pensa già alla sfida coi tedeschi. Mi piace la squadra del Bayern, mi sembra una squadra ancora meglio che la squadra che noi abbiamo battuto nell'Inter. Sarà sicuramente una semifinale durissima, però durissima per le due squadre. 2-1 del Chelsea sul Benfica dopo l'1-0 per gli inglesi all'andata a Lisbona. Le date delle gare d'andata delle semifinali: il 17 aprile Bayern Monaco Real Madrid, il 18 aprile Chelsea Barcellona. Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata da Daniele Biacchessi, al microfono Simone Spezia, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.